in primo piano. Alle 7:34 minuti, una buona giornata da Laura Bettini, la rassegna stampa insieme le prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Sole 24 Ore, che dedica l'apertura allo smart working e ancora obiettivo 4 milioni. Questo è il titolo. Sarà la contrattazione collettiva a disciplinare lo smart working con un ruolo più pesante per contratti nazionali e aziendali. Sono questi gli obiettivi del governo che si appresta a mettere mano alla legge del 2017 con cui era stato introdotto il meccanismo esclusivo dell'accordo individuale. Il governo stima che dopo la fine del regime semplificato, il 15 di ottobre, lo smart working potrebbe riguardare tra i 4 e i 5 milioni di lavoratori. Così appunto apre il Sole 24 Ore, centro pagina, si parla di alluminio dumping dalla Cina. I produttori chiedono dazi europei. Bruxelles prepara tariffe all'import del 37%. Perché? Perché il settore soffre le importazioni appunto dalla Cina, parte delle quali in dumping. Stime Euralnuti parlano per il settore nazionale di un calo del fatturato del 20% per il 2020 ed ora appunto le aziende sono in attesa dell'inchiesta di Bruxelles, del via libera, sperano loro, ai dazi del 37%. Sempre dalla prima del Sole 24 Ore si parla di monopoli, pronti bandi di assunzione per 1200 giovani e poi ancora di borsa italiana, Euronext, CDP muove e arriva anche l'appoggio di Intesa, depositata l'offerta Deutsche Börse, in arrivo quella di Zurigo. Si ricorda poi in prima il consueto appuntamento del sabato con l'approfondimento dedicato al cibo, food, economia del cibo e agroalimentare. Quest'oggi è dedicato agli incentivi per le coltivazioni biologiche che arrivano dall'Europa. E poi un piccolo richiamo così anche per sollevarci un pochino, perché la Royal Mail in crisi va a lezione da Poste Italiane. Quindi le poste britanniche molto in crisi in questo momento, insomma, guardano all'Italia per vedere un po' come Poste Italiane a suo tempo si è risollevata dalla crisi in cui versava. Andiamo al Corriere della Sera, strappo di Giorgetti sul referendum, questa è l'apertura, quindi si va al referendum, si va alla presa di posizione dell'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti, che ha annunciato il suo no al referendum sul taglio dei parlamentari. E poi sempre dalla prima, nello stesso titolo del Corriere della Sera, i fondi e il partito, l'inchiesta che agita la Lega. Questo tema ovviamente lo ritroveremo su tutte le pagine dei quotidiani oggi, ciascuno con il suo taglio, ciascuno con le sue indiscrezioni, i suoi approfondimenti. Noi leggeremo poi un piccolo passaggio dal Corriere della Sera dove scrive Giuseppe Guastella, sempre ben informato, nell'inchiesta sui contabili della Lega, il giallo dei fondi per le elezioni 2018. Questo è il titolo dell'articolo che poi si trova a pagina 8. In breve la questione viene riassunta in prima in un interrogatorio la cui veridicità delle affermazioni è tutta da valutare da parte di chi indaga. Si mettono in relazione gli affari dei commercialisti arrestati ai fondi da utilizzare per la campagna elettorale della Lega. L'inchiesta di Milano agita il carroccio e a complicare il momento è arrivato lo strappo, come dicevamo, dell'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti, che ha annunciato il suo no al referendum sul taglio dei parlamentari. Altro tema ovviamente su tutte le prime pagine è il ritorno a scuola e il Corriere sceglie il rebus dei certificati per titolare in prima. I presidi chiedono garanzie sul rientro degli studenti malati, in Italia 2280 focolai. Ci ricorda il Corriere che Israele è tornato in lockdown e poi che il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto semplificazioni ma con una nota di rilievi al governo. E cioè un po' un richiamo a non mescolare le mele con le pere, potremmo dire in termini così molto semplicistici. Si ricorda il giovane Willy, la mamma di Willy Monteiro, la sorella Milena e il padre alla fiaccolata in ricordo del giovane ucciso a calci e pugni a Colleferro, sono nella fotonotizia del Corriere della Sera. Oggi ci saranno i funerali, parteciperà anche il Premier Conte. Come abbiamo sentito nei giornali radio, i funerali saranno contingentati per ovvi motivi, non ci si può entrare tutti, i posti sono mi pare attorno a 1300 e poi niente, poi si chiuderanno ovviamente i cancelli a coloro che vogliono partecipare, che dovranno quindi necessariamente restare fuori. Corriere della Sera, positivo Savona, chiude la Consob. La Consob è chiusa per Covid, l'autorità che vigila sui mercati finanziari resterà chiusa una settimana in entrambe le sedi di Roma e Milano dopo che il suo presidente è risultato positivo al coronavirus. Il presidente Paolo Savona, 83 anni, asintomatico, ha fatto sapere e quindi sta bene, dice. Andiamo alla Repubblica. La Repubblica, Lega, nell'inchiesta spunta il nome di Salvini a tutta pagina. Ovviamente la Repubblica riprende questa questione. Gli investigatori, dopo le perquisizioni, il commercialista indagato andò a Roma per incontrarlo. Le intercettazioni dalle quali c'è un virgolettato, faremo altre 1000 operazioni, e il leader Salvini, sono tranquillissimo, sono onesti, riferito ai commercialisti. E poi c'è la svolta di Giorgetti, voto no al referendum. Questo così il tema portante della prima pagina di Repubblica, dove però si ricorda anche un'intervista alla commissaria europea Gabriel sul vaccino. L'UE è molto avanti, non sono esclusi però nuovi lockdown. Vado subito a leggere qualche passaggio di questa intervista, poi torniamo alla prima. L'intervista è di Alberto D'Argenio, corrispondente da Bruxelles. Speriamo che le prime dosi del vaccino siano pronte entro la fine dell'anno o all'inizio del 2021, dice Maria Gabriel, commissario europeo alla ricerca e all'educazione, che da Bruxelles, attraverso il programma Horizon 2020, finanzia i progetti di aziende, laboratori europei sul vaccino per il Covid-19. La 41enne bulgara assicura che l'urgenza di sconfiggere il virus non porterà a compromessi sull'affidabilità del rimedio. Afferma che le scuole sono più pronte a convivere con la pandemia rispetto a 6 mesi fa, ma non esclude nuovi lockdown. Quanto al possibile taglio della quarantena da 14 a 10 giorni, consiglia cautela. È presto per questa decisione. Però, come sappiamo, la Francia ha già preso questa decisione di ridurre i giorni della quarantena, quindi questo è un auspicio ovviamente che viene fatto dalla commissaria, ma che appunto poi ciascuno declina paese per paese un po' come crede, e questo è forse anche una debolezza che abbiamo in questo momento come Unione. Torniamo alla prima di Repubblica, dove ci sono altri due titoli e due articoli che non abbiamo modo di leggere adesso, ma che vorrei invitarvi magari a leggere voi a casa, insomma, sulle pagine dei quotidiani, in particolare quello di Emanuela Audisio, Iran, il wrestler che rischia l'impiccagione, sono storie di sport che però, come scrive l'Audisio, non sono più storie relegate al mondo sportivo. La grande campagna internazionale che è stata lanciata per questa atleta è perché lo sport ormai non è più indifferente ai mali del mondo. Tappare la bocca agli atleti più o meno popolari non è più di moda, scrive l'Audisio. E l'altro tema è quello della ferocia degli uomini vigliacchi. Michela Marzano ne scrive: prima Colleferro, poi Matera, ci costringono a fare i conti con la logica del branco, che sempre quella è alla fine, è la logica di un branco e di un pensiero, diciamo, antico, originario e non certo educato. La stampa, Lega bufera giudiziaria, si indaga sui prestanome, questo è il titolo di apertura. Al setaccio i rapporti tra uno dei commercialisti di Salvini e l'Andrangheta, aggiunge qui La Stampa in un articolo di Monica Serra, che inizia così: le ombre della criminalità organizzata sullo studio del contabile della Lega. L'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari tre commercialisti coinvolge il prestanome Luca Sostegni arriva al boss dell'Andrangheta, Angelo Lamari. Salvini difende i commercialisti, persone oneste. Al centro pagina la scuola, scontro Azzolina-Cirio sui test, questo più specificamente riguarda la regione Piemonte, ma insomma vedremo più avanti cosa sarà. A passo assai più lento che nel resto d'Europa, per la sesta settimana consecutiva la curva epidemica continua a crescere anche da noi, ma quel che più preoccupa è l'età dei contagiati. Questo l'incipit poi dell'articolo di Paolo Russo che riporta l'allarme degli esperti e i nuovi possibili, chissà, lockdown. Orrore a Matera, lo stupro diventa gioco tra maschi, ed è qui ci riporta lo stesso tema ripreso poco fa appunto su Repubblica. Due stupri, la notizia è di ieri, e anche se i due episodi risalgono a momenti diversi, abbiamo avuto la sensazione di una insopportabile crescita di casi di violenza contro le donne, un mostruoso carnevale criminale determinato da chissà quale rabbia, come se la compressione del tempo in cui viviamo, le costrizioni alle quali siamo costretti per arginare il contagio, potessero agire su certe persone rendendole più inclini alla sopraffazione, come se l'irrazionalità di una stagione compromessa dalla malattia potesse produrre da adesso in poi chissà quali scenari di imbarbarimento. Questa è la lettura di Elena Stancanelli sulla Stampa, Stampa dalla quale leggo un altro piccolissimo passaggio prima di dare spazio al traffico. Nino Cartabellotta, medico, presidente della Fondazione Gimbe di Bologna, e lui legge i dati sul Covid. E quindi cosa legge per l'Italia? Che siamo passati dai 200 casi al giorno di luglio ai 1400 di settembre, un incremento dovuto alle vacanze, a più test, all'aumento di contagiati in circolazione. Come continuerà dipende dai comportamenti degli italiani e dalla capacità di fare tamponi. Speriamo che le regioni non facciano come ad aprile-maggio, quando per timore di non riaprire lesinavano sui test, dice Cartabellotta. Però è difficile, secondo lui, che si torni ai 4.500 casi della primavera scorsa, ma potremmo arrivare a numeri che costringano a mini lockdown, non a lockdown totali, ovviamente circoscritti ad aree rosse, chiamiamolo così, come siamo stati abituati a chiamarle negli ultimi tempi. Viabilità, a tra poco. In primo piano. E proseguiamo con la lettura dei quotidiani, andiamo alla prima pagina del Giornale, il titolo Spiano la Lega, assalto giudiziario, così appunto vede il Giornale la questione. Nell'inchiesta sui tre commercialisti utilizzati Trojan nei cellulari, così hanno intercettato chiunque. E poi anche qui Giorgetti spacca il partito al referendum, voto no. Vi leggo l'incipit dell'articolo di Stefano Zurlo. C'è di mezzo un Trojan, il commercialista Michele Sciglieri, arrestato nelle scorse ore insieme a due colleghi legati al Carroccio, rischia di diventare famoso come Luca Palamara. Lo smartphone dell'ex leader ANM, infettato da un software spia, si era rivelato una miniera per gli investigatori, che avevano ascoltato non solo le telefonate ma anche gli incontri e pure i sospiri delle persone incontrate. I reati, se ci sono, contano fino a un certo punto, perché il Trojan svela un mondo, le reazioni, i pettegolezzi, fuori onda. Quello inserito nel cellulare di Palamara ha mandato in cortocircuito i vertici della magistratura italiana. Quello inserito nel telefonino di Sciglieri trasforma potenzialmente l'indagine su un modesto capannone in quel di Cormano, un affare da 800.000 euro con presunta cresta spartita tra gli amici degli amici, in una indagine pesantissima, super invasiva, ad altissima definizione sulla Lega. Sciglieri era revisore del partito, entrava e usciva da via Bellerio, incontrava parlamentari che naturalmente con questa storia non c'entrano nulla. Adesso che succederà? Si chiede Zurlo, che poi prosegue nella sua disamina alla pagina 3 del Giornale. Altro che odio razziale, scusate, IPM, Willy ucciso solo per futili motivi, così il titolo sull'omicidio di Colleferro del Giornale. E andiamo alla Quotidiano Nazionale. Quotidiano Nazionale, la scuola riapre ma già la febbre. Presidi e pediatri, la temperatura si prova a casa ma serve un check prima di entrare, certificati dopo 3 giorni di assenza, guida alle regole, merenda sul banco e zaino da sanificare. Restano 1000 problemi. Alla Spezia ha rinviato l'inizio di 10 giorni per appunto un aumento dei casi. Centropagina una fotografia di Willy Monteiro Duarte, aveva 21 anni, gli arrestati accusati di omicidio volontario aggravato, su Willy si sono accaniti solo per il gusto della violenza. E poi, sempre dalla prima, leggiamo la frode dei tamponi, risultati inaffidabili. La Toscana inchiesta su un appalto da 10 milioni. La Synlab, leggiamo nell'articolo di Stefano Brogioni da Firenze, la Synlab, regina dei tamponi, che si era aggiudicata la partita milionaria dei test delle tre ASL toscane, finisce sotto inchiesta per aver usato un reagente diverso da quello previsto nella convenzione con il servizio sanitario. Per il giudice Angelo Antonio Pezzuti, che ha firmato la misura dell'interdizione per due responsabili del colosso delle analisi, i risultati ottenuti con questa soluzione priva di procedure di validazione non sono affidabili. Frode in pubbliche forniture, l'ipotesi di reato. La sanità toscana pare ancora una volta offesa da forniture che nel periodo più nero della nostra storia recente non corrispondevano alle sue richieste dettate dall'emergenza. Dubbi che sono sorti anche per i ventilatori polmonari, affidati, secondo la procura, a un fornitore che non è stato in grado di consegnare nei tempi previsti per le mascherine e ora per i tamponi. Che però, se non sono affidabili, creano un problema oltre che alle tasche della regione toscana, anche a chi li ha fatti, immagino. Andiamo al Messaggero. I comuni potranno spiare nei conti dei contribuenti. Questo è il titolo di apertura, assegnati a sindaci e governatori poteri più ampi per riscuotere le imposte. Il monito di Mattarella nel DL Semplificazioni, troppe norme incongruenti. Di questo abbiamo detto. Sulla questione dei comuni che potranno spiare nei conti correnti, leggiamo qualche riga dell'articolo di Umberto Mancini, pagina 3. Comuni e regioni potranno entrare nei conti correnti dei cittadini. Sul segreto bancario cadono gli ultimi veli, perché dopo l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, d'ora in avanti anche gli enti locali avranno libero accesso all'archivio dei rapporti finanziari. Una vera rivoluzione con effetti potenzialmente dirompenti, per non dire pericolosi, e con il diritto della privacy, tanto per citarne uno, a rischio violazione. Ovviamente la nuova incursione avrebbe lo scopo di rendere, almeno in via teorica, più efficiente la riscossione delle imposte e tasse di competenza, appare invece come l'ennesima invasione di campo che sovrappone, tra l'altro, più competenze. Ad aprire la porta ai funzionari del comune e a quelli regionali e provinciali è una norma del maxi emendamento al decreto semplificazioni, norma camuffata dietro rimandi e commi, tanto da risultare difficilmente intellegibile ai più, e come spesso accade con le materie fiscali, passata sotto silenzio. Di fatto però la nuova regola introdotta nel provvedimento consente l'accesso ad una poderosa banca dati, senza prevedere però meccanismi di controllo e abilitazione per i funzionari degli enti locali che dovranno sbirciare nei conti, o almeno lasciando alla buona volontà degli enti locali di costruire da zero un qualche meccanismo di tutela e controllo della complessa procedura. Qui ci fermiamo, tema che se così insomma sicuramente provocherà non poca discussione e ribellione. Il Fatto Quotidiano si concentra sulla Lega e Salvini, il titolo è diciamo volutamente ambiguo, Salvini e la cena a quattro con i Trojan. I soldi della Lega, l'incontro a maggio con Calderoli, Borghesi e Manzoni, ora gli arresti, tutto intercettato. Così titola il Fatto Quotidiano. Vediamo giusto qualche passaggio. Davide Milosa, ce la facciamo? Sì, cena romantica tra i vertici della Lega e uno dei commercialisti arrestati giovedì a Milano, tavolo per quattro. Si discute di soldi di un direttore di banca amico sulla via del licenziamento. L'annotazione della Guardia di Finanza del 29 maggio ed è agli atti dell'inchiesta Film Commission, coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal PM Civardi. Al tavolo è presente il professionista Andrea Manzoni, amico di università del tesoriere del Carroccio Giulio Centemero. Siedono poi il capo del partito Matteo Salvini, il vicepresidente del Senato, nonché coordinatore delle segreterie nazionali della Lega Roberto Calderoli e il senatore bresciano Stefano Borghesi, eletto nel 2018, commercialista di professione e già socio di studio con Manzoni, Alberto Di Rubba, altro indagato dell'indagine, e lo stesso Centemero. La cena, stando alle indagini, si svolge tra il 24 e il 26 di maggio. Va avanti poi a pagina 3 l'articolo di cui vi ho letto di Davide Milosa. Andiamo ad Avvenire. Avvenire sceglie l'apertura ricordando Willy. Ora l'accusa è omicidio volontario. C'è uno striscione portato dagli amici, giustizia per Willy. Si aggrava la posizione dei quattro giovani accusati della morte del coraggioso 21enne. Oggi i funerali a Paliano con il premier Conte. E poi l'allarme disoccupazione, il titolo è proprio Il virus disoccupazione, i dati del secondo trimestre, crisi per i giovani, i casi sono in salita, in Francia la quarantena di 7 giorni, nel lockdown è stato perso 500.000 di posti e poi a scuola mancano le mascherine, ci ricorda Avvenire. Al Manifesto scelgono anche qui un'apertura dedicata alla scuola, la fotonotizia è State in campanella, lunedì la scuola riapre ma non per tutti, in 12 regioni frequenze parziali, rotazione tra didattica in presenza e a distanza, studenti senza classi, precariato di docenti e personale, mentre il contagio accelera e la cabina di regia, Istituto Superiore di Sanità, Ministero, non esclude nuove misure per contenere l'epidemia. I PM sulla questione Willy e i funerali, PM è stato omicidio volontario, ricorda Il Manifesto, e poi in piccolo serie nera per Salvini, Giorgetti si smarca dal referendum, come abbiamo detto. Velocemente i titoli anche di Libero, contro la Lega, plotone d'esecuzione, prima mandano a processo l'ex ministro per gli immigrati, ora arrestano 3 contabili vicini al Carroccio e i compagni tirano pomodori a Matteo. La strategia della testuggine, ha presente la formazione a testuggine, ecco esattamente la condizione plastica del partito davanti a questo plotone d'esecuzione. Gianmarco Centinaio evoca per i militanti della Lega la testudo, la formazione difensiva dell'esercito romano che richiedeva scudi temprati e perfetta coordinazione di gruppo alla notizia di 3 commercialisti del Carroccio appena arrestati. Poi lo scambio di battute tra Zangrillo e Selvaggia Lucarelli sul ricovero di Berlusconi per coronavirus, lo troverete se volete in molti quotidiani. Noi vogliamo però leggervi in conclusione il titolo di apertura della Verità: Conte tenta di farsi il comizio in Rai ma stoppato il blitz da Mara Venier. Dopo settimane sottotono, rendendosi conto che un flop alle regionali gli può essere fatale, il premier si decide a giocare il tutto per tutto e architetta un messaggio alla nazione a domenica in, ma l'opposizione si scatena e il teatrino salta. E qui noi ci fermiamo con questa rassegna stampa, c'è GR24, ci ritroviamo alle 8:30 con Si può fare, da Laura Bettini, buon ascolto e grazie a Peter Bescapè in regia.